Sospetto, giunto appena di Russia, gli recava una lettera del fratel Valeriano. Del fratello anche lui! Valeriano! Null'altro! Nulla! Oh, la prova suprema! La confessione sua! Confessa il suo delitto! Confessa! Finalmente! E poscia? Fate il vostro mestiere! Non un prego! Non un sicuro! Abbiamo un bavaglio! Alla foce della Senna gli appende la nave di Sabetta e quello suolo russo! Obbedirò, signora, o vivo o morto! Questa è l'ambasciata! Sia spedita all'istante a Pietroburgo! Forza il generale Yarishkin. Ogni cosa in forno. Sarà fatto, eccellenza. Silenzio! È lui! È lui! Andate! Inseguo la donna vacilla, balbetta,

Sono il comandante, ecco, voi? Non credo più. Ho rinunciato a voi. Tutto mi viene a noia. Che la bella natura. Alcune lettere dirette a mia Parigi. Lois, ritorno presto. Subito, arrivederci. Son disceso all'albergo d'Inghilterra. Vado a parlar di voi, salvo il biciclo. Diego, di certo. Chiacchierò!

mia madre, muto è il fratello. Mio fratello al cerco. No, di Borov. Alla grazia! La tua grazia! Figlia mia! Oh! Abbandonata, patria, risale a volarmi, mi è concesso a dir, e tu mi seguirai fino all'altare, ma che d'ora mi occupati, la sorte ancora di fino, ora fieri ero a Parigi, oggi stesso chi sarà, forse giunto, smemorato mi scordavo delle lettere. E di Varò precedente questa lettera in dispaccio. Trionfal del tuo delitto, la confessione tua stessa, insieme al nome dei complici, i miei complici. Chi sono? Valeriano, mio fratello, lui, con quale infamia? Quella lettera è scritta da una rossa divorante a Parigi, segnò con il nome di battesimo, ma la scopriremo, ti recherò la lettera, conoscerò la mia nemica al fin. Iariskin, resto comandò di tuo fratello, Valeriano restato. La fortezza, il fossato, nella notte affogata, mia madre, mia madre, madre mia. Morti per me, morti innocenti. Quella donna, la maledetta spia che mi segue sempre ovunque, ma l'avremo ancora in partita. Perché, ed ora da me ti scosti, non lasciarmi.

这里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科费比沃、高比卡布奇利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Padrini due due vecchi amici. Vladimiro, Vladimiro, nel segreto nostro asilo, tanta sino egli si mostra che il sospetto metto in cuore. Un'espruana tale, ardendo per il dolce castello materno, sopiendi d'un buono promesso a mia madre. Risalgo in slitta per atto ritorno a mezzo alla via, discesa dall'uscio del nobile amico, fratticio la quante di banda l'insepo. La donna vacilla, malvetta, confessa, divanno un biglietto a recuabile di mio. Io salvo e gli uscito, il servo mi lascia un istante. Io corro al diretto e trovo... Che dice? Ti attendo stasera alle 9. Sarva, sarà e tanto mi ferisce, io rispondo, ma Lucia. Ella fuggì.